Kam man porter ayer. Luce, ma cammina e mi piace sta passiata che dopo tanta oscurità mi porta a casa vicino mare, solo che tra se chiesce pare che vuoi passare e mi fai capire com'è sta città, c'è sta o belle o brutte, c'è sta o serve o maste, a sera ci troviamo tutta a cantare e ballare e voglio essere a lei. Abbandona la musica antica, gente che le piace sta passiata che dopo tanta oscurità ci porta a casa vicino mare, solo che tra se chiesa para que eu vou passear. Yeah.